Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Damiano Miceli di Panico Concerti, che è in collegamento con noi. Ciao Damiano. Ciao. Allora, sta giungendo al termine il contest musicale Music is the Best, la nuova piattaforma di scouting di Panico Concerti sul territorio dell'Emilia-Romagna, e proprio in questi giorni, il 12 maggio, uscirà la compilation dei 9 brani finalisti. Prima di iniziare un po' a spiegare rispetto anche alle prossime tappe di questo finale di contest, ti chiederei innanzitutto di raccontarci che cos'è Music is the Best. Allora, Music is the Best è un po', come già anticipato tu, appunto una piattaforma di scouting. Noi abbiamo creato questa, diciamo, realtà parallela proprio perché, diciamo, facendo tante analisi legate proprio all'esistenza dei contest in Italia, che si era un po', diciamo, andata a perdere, insomma, in generale i contest hanno magari un po' perso quella, chiamiamola, coolness che una volta magari potevano avere, ecco, se pensiamo agli storici Arezzo Wave o addirittura alle prime edizioni Targati Italia, cioè delle realtà, cioè degli eventi che in qualche modo realmente portasse avanti delle band, delle realtà musicali emergenti, e non qualcosa che, diciamo, una volta ricevuto il premio lasciasse un po' concludersi l'esperienza. Quindi noi in qualche modo abbiamo cercato di approfondire maggiormente questa cosa, cercando innanzitutto appunto di inserire degli elementi, anche ispirandoci per carità anche ai talent che ci sono tuttora, perché nel senso ci sono persone che non vedono di buon occhio i talent, in realtà bisogna anche riconoscere che in qualche modo hanno sviluppato, anzi hanno evoluto questo tipo di percorsi che le band emergenti in qualche modo si trovano costrette a fare, anche perché nell'analisi sempre generale, allargandoci ancora di più, una cosa che notavamo è che effettivamente mancano sempre di più, soprattutto nelle grandi città, quei club che permettono a giovani band di esibirsi, di essere messi nelle condizioni di poter fare un live come si deve, o comunque insomma un live, ecco. Cominciando a mancare sempre di più questo tipo di realtà, forse i contest hanno bisogno di esistere ancora di più, ecco. Per cui la nostra idea è prendere delle band e supportarle, cercare in qualche modo anche di formarle. Infatti noi, oltre a diciamo alla parte di esibizioni live, di concerti, abbiamo tutta una parte legata alla formazione, che tra l'altro proprio in questi giorni si sta svolgendo negli spazi di Bauhaus. Quindi le 9 band finaliste, dopo essere andate in studio, aver registrato un brano affiancato a un produttore, adesso si trovano a incontrare altri professionisti, quindi l'avvocato Emanuela Russo per parlare dei diritti, come funzionano i diritti connessi, cosa sono. Hanno incontrato, incontreranno, scusate, anche i ragazzi di Orchard, che è uno dei più grandi distributori digitali nel mondo, per parlare come funziona tutto il meccanismo, qual è la filiera del digitale, e così insomma andando avanti. Oltre questo, stiamo anche facendo una mappatura insieme a Kilowatt, che è la realtà appunto che si trova alle sere dei Giardini Margherita, con loro stiamo facendo un lavoro di mappatura e di ricerca proprio su quello che erano e sono oggi le scene musicali, in qualche modo per riconsegnare poi alla regione un quadro più possibile, insomma, veritiero di quello che sta succedendo adesso, qual è la situazione attuale, soprattutto nell'ambito della musica giovane. Tutto questo processo si concluderà il 19 maggio con una serata, una sorta di festa all'insegna della musica al Locomotive Club di Bologna, dove però si sceglieranno anche le 2 band vincitrici, giusto? Esattamente. Il 19 maggio al Locomotive ci sarà questo evento che inizierà alle 17:30 di pomeriggio per finire a mezzanotte, che vedrà appunto sia il live, quindi ci sarà la possibilità di assistere dal vivo, ma ci sarà anche lo streaming. Le 9 band si esibiranno, ci saranno, oltre alla giuria che ha già selezionato le band in tutte le fasi precedenti, ci saranno 9 giurati ospiti, che sono Carlo Pastore, Ilenia Lando di The Orchard, Chiara Gallerani di Italian Music Export, e Fight Pausa, che è un produttore musicista anche dei 72 World of Fights. E con loro faremo la selezione appunto delle nove tra le nove band, sceglieremo due vincitori. Questi due vincitori avranno a disposizione un budget che gli permetterà di produrre poi fondamentalmente della musica nuova, ecco, diciamo genericamente un album, poi appunto essendo noi una sorta di management temporaneo per queste band, con loro concorderemo come investire questo budget. Quindi insomma non saremo stretti sulla questione del disco, ma potrebbe essere anche tutt'altra cosa, ecco, insomma. Per cui l'obiettivo ovviamente è quello di lanciare questa band, quindi oltre alla realizzazione di un chiamiamolo prodotto, potrebbe essere un disco, potrebbe essere dei videoclip, eccetera eccetera, ci sarà poi un tour che si terrà tra l'Emilia Romagna, in realtà è anche fuori dalla regione. Perfetto, Damiano, io ti ringrazio per la tua chiarezza e speriamo di risentirci presto. Grazie mille a te, speriamo bene.